Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Le 8:21 in questo preciso istante a Radio 24 che sancisce l'ora ufficiale di tutto il mondo. Tutto il mondo, cioè l'ora in ritardo, per no, noi siamo maestor, entra in orari sempre più improbabili, ma comunque. Poi sai che c'è, come ha annunciato ieri l'azienda, taglieranno i ritardi anche del 30%, però questa sarà una delle cose positive degli interventi annunciati. Taglio del costo lavoro del 30%, cari ascoltatori, vedremo naturalmente, io sono pronto, mi autoridurrò un terzo di una gamba, un terzo di una mano, un terzo della lingua, saremo creativi, questo capelli, possiamo... I capelli, questo... no, quello già dato, questo, quindi sì. Infatti le giornaliste potranno però compensare i maschi con che i non tacchi. Ce l'hanno e loro a quel punto potranno rinunciare a metà invece che un terzo i loro capelli e così via, no vabbè stiamo... si fa per dire, scherzando, per siamo in attesa di capire il verdetto. Allora, oggi 5 aprile è un santo di quelli classici dei secoli in cui insomma la Chiesa aveva qualche problema e quindi i domenicani erano i grandi predicatori che battevano l'Europa contro i problemi interni della Chiesa, le divisioni, e quindi oggi è uno di questi proprio santi domenicani più emblematici. Vincenzo Ferrer, di nascita spagnolo, sarà negli anni appunto, nella seconda metà degli ultimi due decenni del 300 e all'inizio del 400, uno dei più instancabili predicatori europei, con un enorme corteo di seguaci, era l'equivalente oggi di una star televisiva, all'epoca non c'erano, ma lui lo era di sicuro, Vincenzo Ferrer, che si deve districare in anni in cui c'erano uno, due papi, addirittura tre papi, Avignone e così via, e ci ricorda questo tempo in cui effettivamente tra scisma ed eresie interne e forte influenza della politica, la Chiesa seppe come i domenicani trovare una propria strada, in parole povere un grande talk televisivo popolare che ha portato alla santità, cioè i domenicani come quinta colonna di oggi, per capirci, quinta colonna in quanto il trasmissione della televisione no, ma la tipologia, cioè che i domenicani erano molto, usavano toni forti, esempi forti, promettevano l'eterna dannazione più o meno a tutti coloro che non erano in linea, quindi ti assicuro che leggi alcune delle pagine delle prediche di San Vincenzo Ferrer ti fa capire, oggi ti verrebbero un po' i brividi, mio Dio quanto è duro questo linguaggio, però per capirci questo bisogna ricordarsi che questo è nel nostro passato. E voglio ricordare anche una santarella che è la santa più nota nelle Baleari, nel mondo maiorchino, che si chiama Santa Caterina Thomas. Perché mi è sempre stato simpatico quando andai la prima volta lì a scoprire il culto di questa santa, che è una canonica agostiniana, una mistica, del resto era nata a Palma di Maiorca, uno dei posti molto molto molto belli, e quindi convinta della grandezza del creato. E anche Santa Ferbuta, perché la povera Santa Ferbuta, martire in Persia, questa già si chiamava Ferbuta, poverina, esatto. Per di più l'hanno perseguitata per la fede, ecco. Nel 1950 alla fine però ricordiamola, a questo punto vale la pena di ricordarla. Nel 1955 oggi si dimetteva uno dei miei idoli politici, cioè Churchill, che era malato, aveva ormai più di 80 anni e poneva fine al termine di una carriera discutibile quanto si vuole, ma insomma un grande punto di riferimento delle libertà, per aver saputo dire non ci renderemo discutibile mai più lo stile di vita, magari se vuoi. Sì, ma no, anche a volte nei primi anni della sua attività politica la spregiudicatezza, ecco, cioè nel senso che era un politico di quelli che al di là della glorificazione per la lotta al nazismo quando la Gran Bretagna era sola, insomma, prima Churchill ne ha fatte ricolte di crude in politica, non per dire, però grandissimo, diciamoci la verità. E ricordiamoci che nel 1982, oggi che i sindacati a Milano sono così furbi da fare uno sciopero nel pieno della settimana del design, complimentoni, davvero dimostrate di essere moltiplicatori di attrattività. Nel 1982 nel Granducato di Lussemburgo c'era il primo sciopero della storia, pensa, fino al 1942 non c'era mai stato uno sciopero. Hanno il difetto di darci politici come Juncker, però il Lussemburgo qualcosa di buono ce l'ha nella storia. Però io voglio dirti che tra tutte le altre cose, per esempio l'anniversario del braccialetto elettronico nel 2001, uno dei più colossali fallimenti del disastro che è la pubblica amministrazione italiana, mai funzionato, all'epoca venne, i giornali dell'epoca viene presentato come la grande soluzione di tutti i problemi per consentire invece che tenere in carcere tutti gli indagati colpiti da questo carcerare, adesso col braccialetto elettronico lo Stato, fallimento totale come sempre, ma io ho un motivo per proporti invece di finire questa celebrazione del ricordo, la memoria del passato, perché oggi nel 1994 si toglieva la vita quello che è rimasto per qualcuno di noi il più grande, ultimo, dannato, innovatore, tenace della musica rock, cioè Kurt Cobain dei Nirvana. Sono tanti anni, questo è Smells Like Teen Spirit, e più avanti ci sarà questa schitarrata violenta che a noi almeno esalta. Oggi non canti però. No, oggi non canto perché sono in mutuo rispetto, però ti dirò la verità che canterei se arriviamo, ma non voglio far passare troppo tempo dopo le tre volte in cui si ripete, appunto. Ecco, però arriva, sta arrivando. Adesso vedrai che c'è l'inno di battaglia, almeno per chi è seguace l'alternative rock come quelli della mia generazione. Io ero vecchio, ma riconosco. Ecco qua. I'm stupid and contagious. Here we are now, entertainer, a mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Vabbè, questo. Mancava lo yeah e poi dopo. Però c'era più insomma, o meno... va bene, povero Kurt, Kurt Cobain, distrutto da se stesso e dai terribili fantasmi che si portava dentro. Chiunque voglio dire, conosca Lithium, per esempio, uno dei brani più sintomatici del suo stato d'animo, sa che ci aveva un po', un bel po' di dannazioni dentro, e infatti si levò purtroppo la vita. Allora andiamo alle notizie di oggi, tutte allegre, tutte contente, immagino. No, non è così, non è così. Diamo il numero di telefono intanto, 800 24 00 24. Caro Oscar, intanto vogliamo tornare a parlare del il TAP. A me piace chiamarlo così, il TAP. Tip questo... TAP, non è tip TAP, ma è il TAP. Questo inteso Transatlantic. Transadriatic. Sì, Transatlantic sarebbe un po' troppo. Transadriatic Pipeline. Che si scopre sui giornali, è tutto abbastanza sospeso perché ci sono i dirigenti che sono barricati nell'hotel, perché c'è qualcuno che le minacce. Siamo in Italia. No, tra l'altro noi abbiamo chiamato il sindaco di Squinzano in provincia di Lecce, è con noi Cosimo Miccoli. Sindaco, buongiorno. Salve, buongiorno. Perché lei, sindaco, ci deve chiarire qualche cosa, ecco, perché il sindaco, il presidente Emiliano, varie volte ha detto noi non siamo, l'ha detto anche qui, guardi, settimana scorsa, la nostra ospite, non siamo assolutamente contro l'opera, semplicemente non vogliamo che arrivi lì a San Foca, vorremmo invece che arrivasse un po' più in là, 50 chilometri se non sbaglio è la distanza, a Squinzano, dove c'è un sindaco e dove c'è un'amministrazione comunale che lo aspetta, braccia aperte, farebbe ponti d'oro, non chiede di meglio. Allora ci aiuti a capire, sindaco Miccoli, è così? Voi lo vorreste questo TAP? No, detta così non è la nostra impostazione, nel senso che noi nel 2013, quando si parlava di TAP e già c'erano le prime iniziative rispetto alla contrarietà della popolazione di Melendugno per quest'opera, noi dicemmo una cosa che per la verità, e questo è un dato che non è emerso in questi giorni, noi diciamo una cosa che era stata già detta un anno prima dalla provincia in consiglio provinciale, quindi con la rappresentatività di tutto il territorio del Salento. Noi dicemmo sì, se proprio TAP deve esserci, noi siamo pronti a sacrificare ulteriormente il nostro territorio, inteso come penisola salentina, che ha già dato tanto a questi insediamenti produttivi, però vorremmo che si cominciasse a parlare della decarbonizzazione di Cerano. Sì. E quindi noi eravamo pronti ad essere coloro i quali prestavano il territorio per questo insediamento produttivo per la TAP, ad una condizione: che Cerano venisse riconvertita. E questo se non sbaglio è l'impostazione che Emiliano proprio ha detto, cioè facciamolo lì perché c'è il piano di riconversione di Cerano e quindi la decarbonizzazione. A queste regole, cioè a queste regole di ingaggio, voi lo accettereste? Sì, a queste condizioni sì, anche perché, ripeto, così come la provincia aveva detto un anno prima, sembra una posizione assennata, non perché lo dice l'amministrazione di Squinzano, ma siccome noi sappiamo gli effetti pregiudizievoli di insediamenti importanti come quelli di Cerano, che è la più grande centrale d'Europa, che non so se contribuisce o meno ad elevare il numero dei morti per tumore in tutto il Salento, però sappiamo che è un insediamento importante. Allora se attraverso TAP non riusciamo a governare questo processo e quindi di eliminare dal Salento questa grande fonte di inquinamento, anche perché ci sembrava inimmaginabile che con un gasdotto come TAP, quindi con tanto gas che arrivava dall'Azerbaigian, la centrale di Cerano, che avrebbe avuto a poche centinaia di metri l'approdo, continuasse ad essere alimentata a carbone. E quindi noi non siamo favorevoli alla TAP, ma se proprio TAP deve esserci, perché il governo nazionale ci dice che è un'opera strategica, allora a quel punto diciamo va bene, a questa condizione. Sì, alla condizione che ci ha spiegato, cioè una condizione che sia anche favorevole dal vostro punto di vista a ottenere un referendum ad esprimerci su Cerano. E le cose non sono andate così come la popolazione disse. Quindi noi vorremmo che laddove TAP vagliasse la nostra idea, che si mettesse a lavoro sin da subito, perché con Enel si possa immaginare sin da subito appunto una riconversione e quindi attivare tutti quanti i processi tecnici e amministrativi per poter riconvertire. È chiaro, sindaco. È chiarissima, la sua posizione è chiara. Oscar, che dici qui? Cioè, secondo me poi ci sarebbero i no TAP anche a Squizzano, non è che questo è ovvio, però da parte del sindaco c'è come dire, un'apertura a dire: a queste condizioni, se mi riconvertite, decarbonizzate Cerano, io come dire, ingoio questo boccone amaro del TAP, ecco, ripetiamolo per i nostri ascoltatori, non esiste il boccone amaro. È tra la scelta di tutte le 11 alternative fatta regolarmente nella indagine da parte della commissione prescritta per legge nella valutazione di impatto ambientale, tra tutte le 11 maggiori alternative, di cui due sotto alternative aggiuntive, per un totale di 14 soluzioni diverse. Il TAR, il giudice amministrativo in primo grado, ha confermato la piena validità e la piena correttezza dell'esame di tutti gli aspetti tecnici per l'impatto ambientale di tutte e 14 le alternative. Il secondo giudice amministrativo, il Consiglio di Stato, di fronte al ricorso della Regione e del Comune di Melendugno, ha nuovamente confermato a suo pieno giudizio e la correttezza totale dell'esame di tutte le 14 alternative. Non è vero che non siano stati presi dunque in esame gli impatti ambientali maggiori, dimenticandoli, e si è scelto invece il peggiore di tutti o uno di quelli tra i peggiori di tutti. Stiamo parlando di una condotta che ha il minor impatto rispetto a tutti gli altri sulla costa. Stiamo parlando di una condotta che verrà interrata per 8 km in un metro e mezzo di profondità e che farà rimuovere poche centinaia di ulivi poi ripiantati, mentre due settimane fa è stata appena inaugurata un'opera dell'acquedotto pugliese che ne ha rimossi 2500. Quindi l'impatto per mercanteggiare non c'è, o meglio c'è, ma è stato esaminato secondo tutte le leggi e le sentenze, solo che in Italia le sentenze valgono solo se sono favorevoli a chi protesta, altrimenti le ignorano. E le ignora in primis un magistrato politico. È interessante capire. Sarò come al solito estremo, ma è l'estremismo di un paese sconfitto e travolto che non riesce a fare un'opera perché ci mettiamo a trattare a livello locale, e la Costituzione attuale ci porta a fare questo, l'equilibrio energetico nazionale. Se io accetto quel tubo, perché è un tubo, niente di più che questo, allora tu mi smantelli quello. Benissimo, il bilancio energetico nazionale si fa così comune per comune? Io penso di no, ma ho torto, perché l'Italia invece lo fa così. La mia idea è questa qua. È interessante capire, sindaco, perché lei percepisce questo comunque, ed è il TAP, l'ha detto anche lei, come una cosa di per sé negativa, cioè se non ci fosse un qualcosa di scambio da ottenere, lei non lo vorrebbe così tout court sul suo territorio il TAP, no? Guardi, è evidente che comunque TAP tolga qualcosa al territorio, e quindi io non è che sia totalmente contrario a TAP, io dico però che rispetto a questa perdita di un qualcosa vorrei capire al mio territorio cosa resta. Oggi perdita, posso fare una domanda per capire, perché tanto io sono un minoritario travolto dagli eventi, in cosa secondo lei, nell'esame che avete fatto, consiste la perdita di un tubo? Questo tubo che non si vede e che ha il minor impatto possibile sulla costa di tutte le altre soluzioni, che impatto, cosa vi leva al territorio nel caso in cui appunto ci fosse l'equilibrato intervento che proponete come amministrazione sulla decarbonizzazione di Cerano? Cosa vi leverebbe? Guardi, intanto le dico che se TAPO mi fa comprendere che effettivamente sulla decarbonizzazione può intervenire seriamente, io sono favorevole alla TAP. E questo l'ha già detto, no? La domanda era un'altra. Invece la domanda che mi ha fatto prima, io non so in che termini TAP tolga qualcosa al territorio, però per esempio noi qui come Salento registriamo che rispetto a questa sommossa popolare, a questi disagi sociali di questi giorni, ci dicono che chi aveva immaginato di venire qui nel Salento a fare le vacanze, qualcuno per esempio ha rimodulato la sua scelta andando altrove. La perdita del turismo. Turismo. È probabile pure lo dicono quelli dei comitati per il momento, però per carità. Sì, io comunque volevo dire anche un'altra cosa rispetto alla domanda di prima. E qualcuno mi ha chiesto se la mia comunità non è contraria a questa mia posizione. No, rispetto a questa posizione non abbiamo una comunità contraria, perché ripeto, dovrebbe essere una scelta intelligente quella della riconversione. Io però dico una cosa, che per evitare che comunque anche un domani rispetto a questa scelta, quindi la riconversione, noi si abbiano altre popolazioni sempre del Salento che possano poi contestare, io dico che dovremmo adesso coinvolgere tutto il Salento per dire guardate che se facciamo questa cosa siamo tutti d'accordo, no? Ma guardi, ma tutti d'accordo, ma come si fa ad andare tutti d'accordo? Ma se siamo il paese che litighiamo in condominio. La giustizia amministrativa è due gradi e ci sono le sentenze. Ma come fate, amministratori della Repubblica, a dire ai cittadini che non valgono le sentenze? Che cos'è la legalità se non un giudice che parla? Perché voi amministratori pretendete di ignorarlo? Alzo la voce apposta e deliberatamente, non perché stia perdendo il controllo, ma perché è il fondamento di una comunità che non funziona, quella in cui se parla un giudice in sentenza è come se non lo avesse fatto dopo che le amministrazioni locali hanno fatto ricorso. In ogni caso noi dobbiamo dare un attimo in pubblicità, il tema, come dire, lo riaffronteremo, sindaco, lei ci ha spiegato le sue posizioni, sindaco di Squinzano, Lecce, Cosimo Miccoli. Andiamo a vedere anche se ci sono ascoltatori su questo, come ci sono. Affronteremo anche un altro argomento tra poco, che riguarda la disabilità. Secondo me è un tema molto interessante che dobbiamo affrontare, sul fatto che molti disabili che fanno interventi nei loro appartamenti per renderli perché più accessibili, non potrebbero entrare, uscire, abbattere barriere architettoniche, purtroppo poi vengono abbandonati nonostante una legge dal punto di vista economico. Allora, pieno diritto al ristoro, e il ristoro lo Stato non glielo dà. Tra poco. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui alle 8:44 minuti. Sentiamo che ci dice Piero da Bologna. Buongiorno Piero. Sì, buongiorno a tutti e due, siete bravissimi. Prima di intervenire sul tappo, una brevissima cosa. Io vorrei Giannino presidente del Consiglio con delega a tutti i ministeri. Beh, sì, so che rimarrà un sogno. Ha degli incubi notturni. Ecco. No, è un incubo più grande. Va bene, no, vada al punto. Allora, va. Io vivo a Bologna, ma sono originario di Lecce, della zona di là del Tappo. Sì. Ho vissuto sino a 8 anni lì, sono cresciuto lì. Conosco benissimo quella zona, è una zona bellissima. I miei cittadini sono dei retrogradi, punto. Beh, là ci sono centinaia di case abusive costruite negli ultimi 40 anni. Dove erano gli amministratori là? Perché non protestavano contro i cementi che hanno costruito a 200 metri dal mare? Non, adesso saranno condonate le case, credo. Certo. Però come in tutta Italia, però non è che sono retrogradi, no, perché i cittadini del Salento sono retrogradi. Guarda, mi sembra una frase un po'. Io sono leccese, però è una cosa intollerabile. Cioè, viva il TAP, viva il gas per tutti. Vabbè, e questo, diciamo, il finale è la sua posizione. Però stia attento, giorni come questi, quando tutto il mondo si sdegna per le foto dei poveri bambini, viva il gas per tutti, è una frase da evitiamo, no, perché siccome non abbiamo detto una sola parola, abbiamo tutti nella testa ovviamente le immagini di cosa è accaduto ad Idlib in Siria. Vabbè, comunque. C'è Vito da Bari, buongiorno. Sì, buongiorno, salve a tutti quanti. Sì. Senta, sono in posizione esattamente contraria a chi è appena intervenuto. Io sono dalla provincia di Bari, ma in questo caso mi trovo a difendere il Salento. Io sabato ho percorso 400 chilometri tra andata e ritorno perché volevo rendermi conto con i miei occhi di chi faceva falsa informazione, volevo capire cosa stava succedendo. E sinceramente mi dispiace dire che sento anche voi fare in falsa informazione, in quanto innanzitutto vi dovete specificare che gli ulivi non sono tutti uguali, ci sono quelli che hanno magari 10 anni, 30 anni, quelli che hanno 300, 400 anni, quelli sono stati ulivi secolari. E soprattutto la falsità più grande che rimangono vivi. No, mi scusi, è falso che è proprio questo il problema di base. No, vengono bruciati. Posso parlare? Prego, prego. Sono condannati a morte certa, se vuole le mando le foto, perché sono stati sradicati e sono stati lasciati lì sul posto. Innanzitutto io sono un biologo, ma potete chiedere ad agronomi, chi volete voi, non è questo il periodo, si fa in autunno, massimo in inverno. Sono adesso nella fase massima di vegetazione, fioriscono ora ad aprile. È il periodo peggiore in cui poterli muovere, anche... e soprattutto, mi scusi, li hanno lasciati al sole. Da noi sabato c'erano 30 gradi, si poteva fare il bagno, e stanno al sole. Quelli devono essere spostati, interrati immediatamente, facevano bene a regalarli, non volerli rimettere nello stesso posto, perché finché finiranno l'opera saranno tutti defunti, ve lo posso certificare, firmare, sottoscrivere. E quello... Dopo che ci sta accusando di falso, proviamo a muovere un'obiezione, dice che ovviamente non la facciamo parlare. Lei lo sa chi sta impedendo lo spostamento dove è prevista la loro ripiantumazione degli olivi? Lei lo sa? Dove è prevista la piantumazione? Cioè, lei lo sa chi sta impedendo il trasporto degli olivi? Dove... Lei lo sa? Glielo chiedo. Forse non è chiaro. Lì no, forse è chiaro. Glielo faccio per la terza volta la domanda. Allora ce lo dica. Chi è che sta ottenendo l'effetto degli ulivi eradicati, purtroppo non immediatamente ripiantumati? Risposta alla domanda? Allora, possiamo essere d'accordo? No, lei deve dare la risposta alla domanda. Ah, ecco, questo mi bastava sapere. Lei ha detto che l'argomento degli ulivi atti alla distruzione ha omesso che chi non li fa ripiantumare sono i comitati. Io mi fermo qua, punto, io rispetto la sua opinione, però sono riuscito a farle dire che il problema degli ulivi si deve a chi blocca le cose. Poi lei rimane della sua idea e io la rispetto sul fatto che non sia il tempo giusto, che si espongono a rischio le piante, ok, questo ci mancherebbe, io le dica come si permette, però siccome ha sollevato il punto che era d'impatto su chi ascoltava, è importante dire che se purtroppo restano con le radici fuori dalla terra, si deve a chi blocca tutto. Chiusa parentesi. Vito, la richiamiamo magari nei prossimi giorni, perché altrimenti non c'è spazio per l'ospite con cui dobbiamo concludere la puntata, che è Salvatore Garofalo, che salutiamo. Buongiorno Salvatore. Buongiorno. Garofalo. Salvatore Garofalo è del coordinamento H per disabili di Palermo. Perché, come ha denunciato anche la stampa, ci sono tanti disabili, magari anche all'ascolto, che fanno dei lavori nelle loro case per renderle accessibili, abbattere barriere architettoniche, non so, fare gli ascensori, insomma tutti quei lavori che servono per i diversi gradi di disabilità. Lo Stato dovrebbe rimborsare tutto ciò, magari non tutto, magari in parte, però mancano i soldi. Questa è la questione, in un rimpallo solito di responsabilità, comuni, regioni, enti locali, enti più centrali. Questa è la denuncia che voi fate, Garofalo, da quanto? Da quando? Possiamo dire da sempre. Da sempre, perché, se mi consente, una valutazione della legge 13 dell'89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche, io la definirei una legge aborto, oppure una legge meteora, che si è vista a che scompare, a che scompare, a che compare, a che scompare. Un po' una sorta di gioco di prestigio. C'è e non c'è. Ecco, in questo senso, perché la legge sostanzialmente in Sicilia non è stata mai recepita dalla regione siciliana, solamente uno o due anni è stata applicata per il trasferimento delle somme che venivano dallo Stato. Quando lo Stato poi non ha trasferito più queste somme, sostanzialmente non è stato neanche creato il capitolo di bilancio, non è stata fatta neanche una legge di recepimento. Ma, una cioè legge ci faccia capire, se adesso una persona disabile, un familiare fa, che ne so, un'opera per 20.000 euro di miglioria alla propria casa, quanto di questo si riesce a fare rimborsare dal nulla, nulla, nulla, zero, zero, mamma mia, zero, totalmente. Le dicevo proprio questo. Per cui uno o ce li ha i soldi, no, dico, o uno o c'ha i soldi o hai i soldi o... Bravo, infatti io questo denunciavo. Se la famiglia ha qualche disponibilità, oppure si va a indebitare, perché c'è questa con le banche, facendo dei mutui, facendo una colletta tra i parenti, tra gli amici, e allora si riesce a fare quell'abbattimento che è necessario per il proprio disabile che è all'interno della famiglia. Oppure non si fa niente, il povero disabile, questa persona disabile, resta isolato. Ah, è chiaro, cioè la disabilità rischia di diventare, come dire, invece che una condizione da aiutare, una condanna in questo caso. Bravissimo, ha detto perfettamente bene. Le dicevo, la regione siciliana non ha fatto né una legge, un capitolo di bilancio, né tantomeno nessuna legge di recepimento, oppure legge, come dire, che modificasse, ma che regolamentasse questa materia per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche. Insomma, praticamente ho fatto eccezione di un'applicazione nel 2005-2006, dopodiché non è stato fatto nulla. Le persone hanno presentato nei primi anni 2009-2010-2011 la richiesta con la documentazione, ai comuni, e poi a sua volta i comuni l'hanno passato alle regioni, ma le regioni non avevano i soldi, esatto. Non c'erano soldi in bilancio e quindi non è stato fatto niente. Sono state solamente pubblicate, perché la legge lo prevede, pubblicate a queste creature. No, ma allora non è chiaro, è tutto finito qua. Allora, diciamo che la promessa qua sembra che nella legge di stabilità si voglia ripristinare il fondo per i contributi, però sai, Oscar, qua siamo sempre, come dire, alle promesse. Adesso, per carità, speriamo che sia così. Poi dopo c'è il rimpallo di burocrazie, chi lo deve pagare, i comuni, le regioni. Il dato di fatto è che anche nella burocrazia rischiamo. Dato di fatto che è un'intera categoria di italiani disabili, di fronte alla quale non c'è da fare discussione, secondo me, lo Stato manifesta che la sua testa è altrove, perché le soluzioni che trova per quello che ritiene urgente su due piedi e con decreti legge che valgono immediatamente per tutti, per un tema come consentire ai disabili di avere una vita dignitosa per l'accesso alle abitazioni, beh, evidentemente per la politica italiana non è una priorità. Bisogna arrivare a situazioni come quelle estreme della protesta che ha fatto PIF, no? Urlando. Allora, se è una persona famosa che chiama in causa, che naturalmente il politico di turno ci direbbe che siamo anticasta, a sottolinearlo. Sì, vabbè, domani. In ogni caso, noi ringraziamo Salvatore Garofalo, staremo sotto a questa storia a cercare di capire che si possa sbloccare, perché ci sono intere appunto famiglie che, per me è incredibile che oltre a dover affrontare il disagio della disabilità devono anche o pagare o se no come dire, vivere in condizione doppiamente negativa. Comunque, con con Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia e il canterino Kurt. È il canterino Kurt che dall'alto starà facendo concerti anche io per dicevo i Kurt tu no Kurt ho han sì detto che ho Kurt. Kurt Giannino no. Sì, può essere che faccia Oscar. Quella fine, non credo, spero di no, no, due figli. No. Ma detto questo non ho neanche l'unghia della sua grandezza, quindi no, di essere sinceri nella vita. A domani. Polly says her back hurts, she's just as bored as me. She caught me off my guard, amazes me the will of instinct. Isn't me, heaven seed, let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself, want some help, please myself. Got some rope, haven't told, promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself, want some help, please myself.